Mister Bloom poteva benissimo raffigurarsi il suo ingresso in scena, il ritorno al misero casolare lungo la strada del marinaio che l'ha fatta in barba a Papà Nettuno in una notte di pioggia e senza luna, in giro per il mondo per una donna. C'era tutta una serie di storie su quel particolare argomento di Alice Ben Bolt, Enoch Arden e Rip Van Winkle. E c'è qualcuno tra i presenti che si ricordi di Caoco O'Leary, un cavallo di battaglia peraltro non troppo facile da declamare, sia detto tra parentesi, del povero John Casey, e un brano di pura poesia pur nei suoi limiti. Non si tratta mai di una moglie scappata di casa che ritorni, per quanto affezionatissima al caro assente, il volto alla finestra. Pensate un po' al suo stupore quando finalmente tagliò il traguardo e l'atroce verità balenò in lui nei riguardi della sua dolce metà, naufragio d'ogni suo affetto. Non mi aspettavi davvero, ma son tornato per rimanere e ricominceremo la nostra vita. Essa siede là, la vedova di paglia, a quell'istesso focolare. Mi crede morto in corpo ai pesci. E là c'è lo zio Chubb o Tomkin, a seconda dei casi, il taverniere della corona ed ancora, in maniche di camicia, che mangia la sua bistecca con cipolle. Per il babbo, niente seggiole. Buh, il vento! L'ultimo arrivato è sulle sue ginocchia, figlio post mortem, con un bel trallallà, ed un buon trallallà, ed un gran trallallera, trallallera al trallallà. Inchinarsi al fatto compiuto, sorridere e sopportare. Abbiatemi come sempre per il vostro affezionatissimo e desolato marito, D. B. Murphy. Il marinaio, che non aveva certo l'aspetto di uno che abitasse a Dublino, si volse a uno dei fiaccherai con la domanda: non avrebbe mica per caso qualcosa come una cicca d'avanzo? Il fiaccheraio, consultato così, si dava il caso non ne aveva, ma il tenutario prese un grosso dado di tabacco nella sua giacchetta appesa a un chiodo e l'oggetto agognato passò di mano in mano. Grazie, disse il marinaio. Si depositò il malloppo nel gargarozzo e, masticando e con lenta balbuzie, procedette: siamo a terra da stamani alle 11. Il Tre Alberi Roswin di Bridgewater con un carico di mattoni. Mi sono imbarcato per la traversata. Riscosso tutto questo pomeriggio. Ecco il foglio di congedo. Vede? D.B. Murphy, marinaio qualificato. A conferma della quale dichiarazione, districò dalla tasca interna e porse al vicino un documento dall'aspetto non molto pulito, piegato in due. Lei deve aver visto un bel po' di mondo, osservò il tenutario, chinandosi sul banco. Eh sì, rispose il marinaio, pensandoci su. Ho fatto un bel po' di circumnavigazione da quando sono salito a bordo. Sono stato nel Mar Rosso, sono stato in Cina e nel Nord America e nel Sud America. Una volta ci dettero la caccia ai pirati. Ho visto iceberg in quantità di quelli che fanno fracasso. Sono stato a Stoccolma e nel Mar Nero, ai Dardanelli sotto il capitano Dalton, il più grand'uomo che abbia mai mandato a picco la sua nave. Visto la Russia, Gospodi pomilio, i russi pregano così. Ne avete visti di posti strambi, dite la verità, fece un fiaccheraio. Beh, disse il marinaio, cambiando di posto alla sua cicca semi-masticata. Viste anche di cose strambe su e giù. Ho visto un coccodrillo Coccodrillo mordere l'uncino di un'ancora, come fo io con questo malloppo che ho in bocca. Si cavò di bocca il malloppo molliccio e mettendoselo sotto i denti lo morse ferocemente. Aum! Così! E ho visto i cannibali nel Perù che si mangiano cadaveri e fegati di cavallo. Guardate qua, eccoli. Me l'ha mandata un amico mio. Brancicò e cavò una cartolina illustrata dalla tasca interna che aveva tutta l'aria di essere una cambusa, quindi la spinse attraverso il tavolo. Stampato sopra leggevasi: Choza de Indios, Beni, Bolivia. Tutti concentrarono l'attenzione sulla scena esibita loro: un gruppo di donne selvagge coi perizomi a strisce, accoccolate, ammiccanti, allattanti, accigliate, addormentate in mezzo a uno sciame di fantoli. Ce ne doveva essere una buona ventina, davanti ad alcune primitive capanne di giunchi. Masticano coca tutto il santo giorno, aggiunse il loquace lupo di mare. Stomachi come grattugie, si tagliano le tettine quando non possono più avere bambini. Guardateli qua, questi cosi coi coglioni allo scoperto, a mangiar fegato crudo di cavalli morti. La sua cartolina si trovò a essere un centro d'attrazione per i signori novellini, alcuni minuti e forse più. E lo sapete come si fa per tenerli alla larga? Indagò guardandosi intorno. Poiché nessuno si faceva avanti, egli ammiccò e disse: Vetro, è questo che li scombussola. Vetro. Mr. Bloom, senza palesare la minima sorpresa, rivoltò in maniera casuale la cartolina per esaminare compiutamente l'indirizzo e il timbro parzialmente obliterati. Suonavano nel modo seguente: Tarjeta Postal, Signor A. Boudin, Galleria Becche, Santiago, Cile. Non v'era testo, evidentemente, come subito egli particolarmente notò. Per quanto non credesse implicitamente all'atroce racconto di poc'anzi, né tampoco all'impresa delle uova bersaglio, malgrado Guglielmo Tell e l'incidente Lazzarillo Don César de Bazan descritto in Maritarla, dove la palla del primo perforò il cappello del secondo, avendo tuttavia rilevato una discrepanza tra il nome di colui, concedendo che egli fosse chi asseriva di essere e non navigasse sotto falsa bandiera, dopo aver voltato gabbana da qualche parte alla chetichella, e il destinatario fittizio della missiva, la qual discrepanza lo portava a nutrir legittime sospicioni circa la bona fides del nostro amico. Ciò non di meno la cosa gli richiamò in certo qual modo a mente un progetto da tempo accarezzato, che egli aveva in animo di realizzare un giorno, mercoledì o sabato che fosse, di far cioè un viaggio a Londra via mare. Non già che egli avesse mai viaggiato molto e fino a lontani lidi, però egli era nel profondo del cuore un avventuriero nato, per quanto, per una beffa del fato, fosse rimasto costantemente animale terragno, se non si considerava un viaggio a Holyhead che fu il suo più lungo. Martin Cunningham aveva spesso detto che gli avrebbe procurato un biglietto gratuito da parte di Egan, ma c'era sempre un qualche dannato impedimento, con l'unico risultato che il progetto falliva miseramente. Ma anche supponendo di dover arrivare ad allentare i cordoni della borsa e spezzare quindi il cuore di Boyd, non era poi una spesa folle, borsa permettendo, questione di qualche guinea al massimo, considerando che il tragitto fino a Mullingar, dove contava di arrivare, era di 5 scellini e 6 pence, andata e ritorno. Il viaggetto avrebbe giovato alla salute per via dell'ozono tonificante e sarebbe stato in ogni senso una fonte di piacere, specie per uno il cui fegato non era del tutto a posto, poter vedere le varie località lungo la rotta, Plymouth, Falmouth, Southampton. E via di seguito, il tutto culminando in una visita istruttiva a tutti i monumenti della grande metropoli e nello spettacolo della nostra moderna Babilonia, dove indubbiamente avrebbe visto i più grandi miglioramenti e rinnovato la conoscenza con la torre, l'abbazia, gli splendori di Park Lane. Un'altra idea poi gli venne, che non era per niente cattiva, e cioè che avrebbe potuto dare un'occhiata in giro sulla piazza e cercare di prendere accordi per una tournée estiva musicale di concerti che comprendesse i più rinomati luoghi di villeggiatura, Margate con i bagni, per uomini e donne, e terme di prim'ordine e le acque, Eastbourne, Scarborough, Margate e via di seguito, la bella Barmouth, le isole anglo-normanne e simili gioielli della costa, la qualcosa avrebbe potuto rivelarsi altamente remunerativa. Non naturalmente con una compagnia di cani raccogliticci o con dilettanti locali tipo Mrs. C.P. McCoy. Mi presti la valigia e le manderò un biglietto. No, qualcosa d'extra. Una troupe di stelle irlandesi. La compagnia d'opera Tweedy Flower, con la sua legittima sposa in qualità di prima donna, a mo' di contrappeso agli Elster Grimes o ai Moody Manners. Questione di un'aurea semplicità. Ed egli già si imbaldanziva del successo, purché qualche imbonitore con un briciolo di slancio sapesse tirare i fili giusti e assicurare sui giornali locali soffietti, così da unire l'utile al dilettevole. Ma dov'era l'uomo adatto? Quello era l'ostacolo. Orbene, senza averne l'assoluta certezza, fu colpito dal fatto che un vasto campo si apriva quanto ad apertura di nuove strade per tenere il passo coi tempi, a proposito della strada Fishguard-Rosslare, la quale si buccinava, tornava sui tapini e dipartimenti della circonlocuzione con la dose consueta di pratiche e temporeggiamenti da parte di burocrati e virati e dell'imperante balordaggine. C'erano veramente grandi possibilità per uno spirito di iniziativa che volesse far fronte alle esigenze del pubblico viaggiante, dell'uomo medio, cioè Brown, Robinson e C. Era invero deplorevole, nonché esteriormente assurdo, e non piccola colpa della nostra tanto lodata società, il fatto che l'uomo della strada, qualora il suo organismo abbisogni veramente di un tonico, per una questione di 2 o 3 misere sterline, sia privato della possibilità di vedere un po' più di quel mondo in cui quotidianamente vive, invece di rimaner chiuso nella stia, da quando quel vecchio pulcino nella stoppa m'ha preso in moglie. Dopotutto, accidenti, ne avevano avuto 11 mesi e più di quella noia forzata e meritavano un cambiamento radicale di venue dopo il logorio della vita cittadina nei mesi estivi, di preferenza quando madre natura è nella sua miglior forma spettacolare, essendo questa per loro una vera e propria nuova erogazione di vita. C'erano per i villeggianti possibilità di eguale eccellenza nella nostra bella isola. Deliziosi siti silvani da farti ringiovanire, che offrivano gran copia di attrazioni, nonché un tonico vigoroso per l'organismo. In Dublino e nei suoi pittoreschi dintorni, Pulafuca perfino, alla quale portava un tram a vapore, ma anche oltre, ancor più lungi dalla folla che impazza nel Wicklow, giustamente denominata il Giardino d'Irlanda, zona ideale per velocipedisti maturi. Fino a quando non vada a rotoli, e le lande selvagge del Donegal, dove, se risponde a verità quanto si dice, il Cudeie è particolarmente grandioso, per quanto l'anzidetta località non sia facilmente raggiungibile, cosicché l'afflusso dei visitatori non è ancor quello che potrebbe essere, chi consideri i benefici capitali che se ne possono trarre, mentre Howth, con le sue storiche memorie e altre varie, Thomas il Piaggiatore, Grace O'Malley, Giorgio IV, rododendri parecchie centinaia di piedi al di sopra del livello del mare, era una meta prediletta per persone d'ogni sorta e condizione, specie in primavera, quando i bei 20 anni, per quanto il luogo già da tempo esigesse il suo pedaggio di morti per cadute premeditate o accidentali dalle scogliere di gente che di solito cade, sia detto per incidenza, sul piede sinistro, a solo 3 quarti d'ora circa dalla colonna. Perché è naturale che il turismo moderno sia ancora nella sua infanzia, per così dire, e le comodità lasciano ancora molto a desiderare. Interessante problema da approfondire, almeno a lui sembrava, per un motivo di pura e semplice curiosità. Era il fatto se fosse il traffico a creare la strada o viceversa, o in effetti le due cose insieme. Rivoltò la cartolina illustrata e la passò a Steven. Visto un cinese una volta, raccontava il gagliardo narratore, che aveva delle pillole piccoline come di mastice e le metteva nell'acqua e si aprivano e ogni pillola diventava qualcosa di diverso. Una era una nave e un'altra era una casa, un'altra era un fiore e coi topi. Poi il cinesino ci fa la minestra, aggiunse ghiottamente. Scorgendo probabilmente un'espressione di dubbio sui loro volti, il giramondo non si staccava più dal tema delle sue avventure. Visto anche un uomo ammazzato a Trieste da un italiano. Coltello nella schiena. Un coltello così. Nel parlare esibì un coltello a serramanico d'aspetto pericoloso, del tutto in carattere con la sua persona, e lo impugnò con piglio aggressivo. Fu in un casino per via d'una storia tra due contrabbandieri, uno nascosto dietro la porta, salta fuori alle spalle dell'altro, così. Di le tue preghiere. Fa quello. Trac! Gli entrò nella schiena fino al manico. Il suo sguardo cupo vagava sonnolento sui volti degli astanti, quasi a sfidare ulteriori domande, se ne pungesse loro vaghezza. È un bel pezzo d'acciaio, ripeteva, esaminando il suo formidabile stiletto. Dopo questo agghiacciante denouement, sufficiente a far basire i più tetragoni, richiuse la lama con uno scatto e ripose l'arma in questione in quella sua camera degli orrori di cui sopra, cioè in tasca. Hanno una fissazione per le armi bianche, disse nell'interesse di tutti qualcuno che era evidentemente all'oscuro. Per questo si credette che gli omicidi del parco commessi dagli invincibili fossero opera di stranieri, per via che avevano adoperato coltelli. A tale osservazione, formulata evidentemente nello spirito della più beata ignoranza, Mr. B e Steven, ciascuno a suo modo, entrambi istintivamente si scambiarono sguardi pregni di significato, in un religioso silenzio del classico tipo entre nous, e li diressero laddove Scortica Capre, alias il tenutario, senza batter ciglio, traeva getti di liquido dal suo ordigno bollitore. Il suo volto imperscrutabile, che era una vera opera d'arte, uno studio in se stesso, di là di ogni descrizione, autorizzava a inferire che egli non capisse un'acca di quanto veniva detto. Buffo, molto.